Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Che cos'è l'arte? L'arte è il tentare di portare al mondo la propria visione della realtà attraverso un bisogno imprescindibile di comunicare, magari di esasperare dettagli. Insomma, potremmo parlare per più puntate di cos'è l'arte. Di sicuro si divide in tanti settori: musica, pittura, scultura, scrittura, teatro, cinema e tante altre cose ancora. Beh, naturalmente una cosa è pensare di essere un artista e una cosa è esserlo veramente, insomma riconoscere il proprio talento, la propria specializzazione è frutto di una autoanalisi complessa, bisogna avere umiltà e autostima. È un po' come quando uno sportivo comincia a praticare uno sport e poi magari si accorge di essere più bravo a farne un altro. Bene, noi oggi raccontiamo la storia di un giovane artista che ha iniziato a esprimersi attraverso la musica, poi ha capito che quel mondo non faceva per lui, ha preso una decisione drastica, ha cambiato rotta con coraggio. È un giovane purtroppo al quale la vita non ha dato il tempo di esprimersi, perché è morto veramente, è morto ragazzo, però è anche un giovane che ha sfiorato la storia, e intendo i più grandi, cioè i Beatles. Bene, oggi vi raccontiamo la vita di Stuart Sutcliffe. Siamo a Edimburgo, in Scozia, 23 giugno 1940, qui nasce Stuart Ferguson Victor Sutcliffe. Per gli amici sarà semplicemente Stu. In realtà, anche se lui e la famiglia sono scozzesi, la sua infanzia la trascorre da un'altra parte, a Liverpool. E non so se mi sono spiegato, a Liverpool. E il padre è un uomo rude, autoritario, il tipico scozzese d'altri tempi. Anzi, si parla anche di maltrattamenti alla moglie, quindi insomma, diciamo anomalo. Si parla anche di qualche bicchiere di troppo, però lui è sempre in mare, si imbarca sulle navi mercantili, quindi Stu viene cresciuto principalmente dalla madre, che si chiama Millie. Come tanti bambini inglesi, entra nel coro della chiesa, dimostra una buona attitudine al canto, però non è solo la musica ad attirare la sua attenzione, perché lui fin da quando è bambino eccelle nel disegno, e insomma gli studi artistici sembrano essere il naturale sbocco al talento che lui dimostra con la matita. E a 16 anni Stu viene ammesso a studiare al Liverpool College of Art. È l'occasione giusta per fare anche delle nuove amicizie, per esprimere liberamente le sue idee a proposito di arte, per farsi apprezzare per le sue prime opere. Insomma, inizia a disegnare, a dipingere, ha molto talento, e lui è incoraggiato anche dai suoi professori, comincia a usare di più, studia i classici della pittura, è sempre più convinto di aver trovato la sua strada. Nulla sembra distrarlo dal mondo dell'arte. Ah, splendido, Stuart. Ha mai pensato di scolpire? No. Beh, dovrebbe, ha un senso della volumetria talmente spiccato. Venga a trovarmi domani, prima delle lezioni. C'è un concorso di cui vorrei parlarle. E questo è il film molto bello, La vera storia di John Lennon. C'è questa ricostruzione di questo dialogo con il professore Arthur Ballard, che si accorge della grande differenza tra quello che riesce a fare Stu rispetto ai suoi compagni di scuola. Peraltro, tra questi compagni ce n'è uno che non ha probabilmente molto talento nel disegno, è più interessato alla musica, ha messo insieme una band, come fanno molti ragazzi. La band si chiama The Quarrymen e suonano le canzoni di Buddy Holly, ma questo ragazzo ha un nome destinato a lasciare un segno, perché si chiama John Lennon. L'amicizia tra Stu Sutcliffe e John Lennon nasce dai banchi di scuola. Il legame tra i due si fa sempre più forte, entrambi condividono gli stessi interessi. Stu ha iniziato a vestirsi con un look che è una via di mezzo tra Buddy Holly e James Dean: pantaloni stretti, giubbotto di pelle, occhiali scuri, ciuffo aggiustato con la brillantina. Frequenta i locali underground di Liverpool, dove si incontrano i cosiddetti dissenters, un gruppo di ragazzi che, insomma, sulla scia della B-Generation vuole aprire un dibattito culturale in una società un po' stantia che loro vorrebbero cambiare. E di questo gruppo un po' bohemien fa parte anche John Lennon, che nel frattempo ha incontrato un altro ragazzo che fa la strada, Paul McCartney. I due cominciano a trovarsi in casa proprio di Sutcliffe, perché John Lennon è lì che trascorre molto del suo tempo. Insomma, l'appartamento di Stu diventa un punto di ritrovo per questo gruppo di giovani intellettuali che cercano una dimensione per esprimersi nelle varie forme d'arte. La casa è riempita con le tele che il giovane dipinge freneticamente, diventa una specie di atelier in cui sperimentare tecniche pittoriche, però anche incontrarsi, discutere, suonare, diciamo, potremmo definirla una factory. Lui non lo sa ancora e non lo sanno neanche John e Paul, però tra queste mura si stanno gettando le fondamenta dei Beatles. Il falco e il gabbiano. John Lennon e Stu Sutcliffe sono veramente amici per la pelle, anche perché hanno un'infanzia simile con i padri che non ci sono. John Lennon addirittura vive con una zia, la mitica zia Mimì, che dirà una frase celebre che poi Lennon inciderà su una chitarra: la musica è una buona cosa, ma certo non ti darà da vivere. E si sbagliava di grosso. Insomma, è normale che in questa insicurezza generale i due si attacchino. Lei non trovi in Sutcliffe l'amico, la spalla naturale che gli dà il coraggio di affrontare il mondo. Intanto c'è anche Paul McCartney, ma con lui c'è un rapporto principalmente legato alla musica, e mentre tra Lennon e Sutcliffe c'è qualcosa di più: ognuno aiuta l'altro e lo sprona per realizzare i suoi sogni. Ma per me dovresti andare in una scuola di musica, insomma, è quello che ti interessa davvero. Già, l'università del Boogie Woogie? A Memphis, Tennessee? Esiste veramente? È la mia testa. Beh, vacci allora. Prima immagini e poi crei. È questa l'arte, dopo tutto. Intanto siamo arrivati al 1958. Come succede a tutti i ragazzi che suonano, i Quarrymen continuano a cambiare formazione, ma John Lennon e Paul McCartney ci sono sempre, perché cominciano ad avere le idee chiare, e a un certo punto trovano un ragazzino più giovane di loro che si chiama George Harrison, è molto bravo alla chitarra solista, e quindi cominciano a diventare tre. Siamo lontani ancora dalle sonorità dei Beatles, ovviamente, però nasce un gruppo che intanto suona nei locali di Liverpool, comincia a farsi conoscere, comincia a farsi notare, e gira anche il nome di Stu, ma in un altro modo. Gira questo nome come pittore, come artista, e spesso i locali vengono abbelliti dai murales fatti da Sutcliffe, che ne realizza per esempio uno per cui viene pagato 65 sterline, una cifra non enorme ma molto alta per quel periodo. Insomma, per dei 15-17 anni è veramente un tesoro da investire in qualcosa di utile. Quelle 65 sterline, su consiglio di John Lennon, che vuole a tutti i costi coinvolgere Sutcliffe nei suoi progetti musicali, vengono investite nell'acquisto di un basso. Insomma, John vuole che il suo amico impari a suonare per diventare il bassista del gruppo, e così dopo due anni, nel 1960, Stuart Sutcliffe fa il suo debutto nei Quarrymen, anche se le sue qualità, insomma, sono inferiori rispetto a quelle che dimostra quando dipinge, ma soprattutto sono inferiori agli altri. Paul McCartney ha subito delle perplessità. In quel momento Paul McCartney sta suonando la chitarra, quindi abbiamo tre chitarristi, Lennon e McCartney, che scrivono le canzoni, George Harrison che fa da solista, tutto che si appoggia insomma su un bassista che non è all'altezza della situazione. Però in quel momento il leader della band è John Lennon, che non vuole sentire ragioni. Stu, il suo amico Stu, deve suonare con i Quarrymen, che poi diventano John and the Moondogs. Poi arrivano le prime occasioni per partecipare a festival musicali, per uscire da Liverpool, per confrontarsi con delle realtà musicali già conosciute in tutta la Gran Bretagna. E qui bisogna cambiare nome ancora. Ormai non ci ferma più niente, ragazzi. Arriveremo in cima. In cimissima a tutte le classifiche del mondo. Sì. Ma prima dobbiamo trovare un nome. Che ne pensate di Paul e i Moondogs? Oppure Moon e i John Dogs? Volete il nome ideale per un complesso inglese? I Crickets. Credo che ci abbiano già pensato, John. Come vi sembra i Beatles? Così il nome diventa The Beatles. È un nome che prende ispirazione da una delle bande di motociclisti protagoniste del film Il Selvaggio, quello con Marlon Brando. Il look del gruppo in effetti è simile a quello che si vede in quel film. Siamo ai giubbotti di pelle, ai capelli tirati all'indietro, un'immagine molto rock, ben lontana da quella che vedremo solo pochi anni dopo. Nel 60 c'è una grande occasione. Il primo manager dei Beatles, che si chiama Alan Williams, vuole portare dei gruppi inglesi a Amburgo, che in quel momento è uno dei luoghi di maggior fermento culturale. C'è un gruppo che si chiama Derry and the Seniors, per esempio, che va per la maggiore, ma Williams decide di dare un'opportunità anche ai Beatles, che però non sono ancora, diremo calcisticamente, in formazione tipo. C'è Lennon, c'è McCartney, Harrison, c'è Sutcliffe e poi c'è un batterista che si chiama Pete Best, verrà ingaggiato poco prima della partenza per la Germania, per il quintetto di Liverpool. È la grande occasione per lasciare la loro città, suonare fuori dall'Inghilterra, confrontarsi con una realtà ben diversa da quella nella quale sono cresciuti. Ad Amburgo si suona a San Pauli, che è il quartiere a luci rosse, e tutti quelli che vanno a Amburgo, me compreso, appena usciti dalla stazione, vanno a vedere questo quartiere. Ci sono club dove si suona, ci sono il Top Ten, il Vagabond e soprattutto il Kaiser Keller. I Beatles ottengono un contratto con un club che si chiama Hydra Club a partire dal 17 agosto del 60. Non è un grande inizio, non vengono pagati molto, non possono neanche permettersi un posto decente per dormire, trovano un alloggio di fortuna nel backstage di un cinema fatiscente. Suonano 8 ore a notte per 7 giorni alla settimana. Insomma, questa è la vera gavetta. Però nei ricordi di John Lennon l'esperienza tedesca è fondamentale per la maturazione musicale del gruppo. È stato ad Amburgo che noi abbiamo davvero fatto progressi. Dovevamo fare tutto quello che ci passava per la testa. Non c'era nessuno da cui copiare. Suonavamo quello che ci piaceva di più e ai tedeschi andava bene così, purché il volume fosse alto. E forse era un po' alto il volume, un po' troppo. Il 3 ottobre il locale deve chiudere per le proteste del vicinato. Allora i Beatles si spostano a suonare in un altro locale. Insomma, fanno anche un salto di qualità, perché suonano al Kaiser Keller e dividono il palco con un altro gruppo che si chiama Roy Storms and the Hurricanes, dove peraltro alla batteria c'è un certo Richard Henry Starkley. Un nome che, detto così, forse può anche non dirvi niente, ma in realtà il nome di battaglia di questo ragazzo è Ringo Starr. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Stuart Sutcliffe. Stu Sutcliffe è un coetaneo, un amico d'infanzia di John Lennon, e stiamo raccontando di quando, muovendo i primi passi, i ragazzi dei Beatles sono ad Amburgo. Sono lì con Lennon, McCartney, Harrison alle chitarre, Pete Best alla batteria e appunto il nostro protagonista Stu al basso. però abbiamo anche detto delle sue difficoltà nel suonare il basso. Gli altri continuano a migliorare mentre lui non sta molto al passo, la sua tecnica è inferiore, ha imparato da poco. Poi in realtà lui non è portato, lui è un grande artista, un pittore, uno scultore che è con i Beatles per un legame di sangue con John Lennon, e insomma per nascondere i suoi errori, perché lui si rende conto di non essere all'altezza degli altri, spesso si gira di spalle, sta in seconda fila, e questo dal pubblico, soprattutto dal pubblico femminile, viene colto come un atteggiamento da bel tenebroso, da uomo misterioso col giubbotto di pelle nera e i Ray-Ban calati sugli occhi. Quello si è girato e se n'è andato senza neanche guardarci, e sai perché? Sì, lo sai perché? Perché facevamo schifo. Bravo, facevamo schifo. Quello pensava di ascoltare del rock and roll, non quella lagna mortale del cazzo. È uno stronzo. Tu per il complesso è una palla al piede, te ne rendi conto, vero? Così non sfondiamo. Vuoi buttarlo fuori? No, John, io non voglio assolutamente... Apri bene le orecchie. Se Stuart se ne va, me ne vado anch'io, chiaro il concetto? Ma che cazzo ti prende? Questa era una ricostruzione cinematografica di una lite tra Lennon e McCartney. Ci sono degli attriti molto forti e l'argomento è proprio la difficoltà di Sutcliffe di tenere il passo con gli altri. Però Amburgo è una città interessante e piena di giovani che vogliono crescere, che vogliono sperimentare, che vogliono modificare il loro atteggiamento intellettuale nei confronti della vita, insomma un fermento culturale tra i giovani della Rapper Ban, che è la via che attraversa il quartiere a luci rosse di San Paolo, dove peraltro si suona dell'ottima musica. A volte un incontro può veramente cambiare tutte le dinamiche, anche quelle all'interno di una band come i Beatles. Succederà più volte, peraltro. The first person I saw was Stuart. La prima persona che ho notato fu Stuart. Dava le spalle al pubblico e questo bastò per attirare la mia attenzione. Ci presentarono e quando iniziammo a parlare il mio cuore iniziò a correre e la stessa cosa successe a Stuart. He was shaking as well. Questa è la voce di un personaggio che diventerà un personaggio chiave nella storia dei Beatles, Astrid Kircher. È una giovane fotografa di Amburgo e oltre a dilettarsi con la macchina fotografica, però è un artista, è un intellettuale. E l'incontro tra lei e Sutcliffe è di quegli incontri fatali dai quali non ci si può difendere. L'amore per l'arte, che si era un po' addormentato in Sutcliffe per cercare di trovare la sua strada nella musica, si risveglia. Per lui l'incontro con la Kircher è la rivelazione che gli apre gli occhi e che gli fa capire quale deve essere veramente il suo futuro. Intanto i Beatles vengono cacciati dal Kaiser Keller perché salta fuori che George Harrison, che è il più piccolo di tutti, è minorenne, non può entrare e tantomeno lavorare in un locale del quartiere a luci rosse. Insomma, devono tornare a Liverpool, però a Liverpool c'è un locale nel quale vanno a suonare. Questo locale si chiama Cavern e qui incontrano Brian Epstein e la storia inizia a scrivere il suo meraviglioso corso. Aprile del 61 si torna ad Amburgo. Sutcliffe non vedeva l'ora, perché ad aspettarlo c'è quella che ormai è la sua fidanzata ufficiale, Astrid. E qui accade un altro episodio importante per la carriera dei Beatles, perché Astrid convince Sutcliffe a rinunciare alla sua capigliatura alla James Dean con i capelli tirati indietro. Lo convince a far scendere sulla fronte la famosa frangetta che diventerà un marchio di fabbrica dei Beatles. All my friends in art school had this haircut. Tutti i miei amici a scuola avevano quel taglio di capelli e io volevo rendere quel volto già bellissimo ancora più bello. Così chiesi a Stuart di tagliargli i capelli facendogli scendere un ciuffo sulla fronte e lui si dimostrò entusiasta. Allora presi lo shampoo, gli lavai i capelli e glieli tagliai. La prima impressione non è delle migliori tra gli altri componenti del gruppo. Naturalmente l'unico che accetta subito la scelta di Sutcliffe è il suo amico John Lennon, che si fa tagliare i capelli allo stesso modo, e poi piano piano anche gli altri, e questo insomma anche dal punto di vista estetico determinerà uno spartiacque nella vita dei Beatles. Poi, nel luglio del 61, si chiude l'esperienza di Amburgo, bisogna tornare a Liverpool, bisogna cominciare a fare i musicisti sul serio. questa volta c'è questa decisione improvvisa, inaspettata, è un vero e proprio colpo d'ala verso l'alto, verso il basso, verso un'altra parte, verso un'altra nuvola, perché Sutcliffe capisce che può rinunciare alla musica, al suo successo, per inseguire il suo vero amore, quello per l'arte, accompagnato peraltro dalla sua musa ispiratrice Astrid. Insomma, per Sutcliffe questo è il gran rifiuto. Stuart voleva sposarmi, ma nello stesso tempo aveva capito che non voleva più avere a che fare con la musica e voleva dedicarsi all'arte. Così decise che prima del matrimonio avrebbe concluso gli studi. Ecco perché lasciò i Beatles, per diventare uno studente della scuola d'arte di Amburgo. The College of Art in Hamburg. Dal punto di vista della musica, questo è un passo avanti, perché il tassello che mancava va a posizionarsi nel posto giusto, perché al basso va Paul McCartney, che diventerà uno dei più grandi bassisti della storia di questo strumento. Però in quel momento John Lennon soffre molto, è l'ennesima separazione da una persona che lui considera parte della sua famiglia e della sua vita. Intanto Stuart Sutcliffe a Amburgo ha finalmente trovato la sua strada, la sua casa, che è la scuola d'arte, e quindi il posto dove lui vive con Astrid si incomincia a riempire di nuovo di tele, di disegni, proprio come accadeva a Liverpool. Poi c'è questo grande amore con lei, con la quale condivide un momento felicissimo, creativo, eccitante della sua vita. Purtroppo sarà un momento molto breve. At first he used to say, oh, this headache makes me crazy. Inizialmente cominciò col dire: questi mal di testa mi fanno impazzire. Poi però cominciò ad avere altri disturbi. Gli dava fastidio la luce. Aveva capogiri, finché un giorno svenne in classe durante una lezione. I medici lo visitarono, ma nessuno riuscì a capire la causa di quei mal di testa. Il 10 aprile 1962 Stuart Sutcliffe ha un altro attacco, perde conoscenza, questa volta fanno chiamare un'ambulanza, ma questa ambulanza non servirà a nulla, perché Stu, a soli 22 anni, muore per una emorragia cerebrale. Alcuni esami effettuati successivamente diranno che le cause dell'aneurisma erano da collegare probabilmente a una frattura del cranio subita probabilmente in una rissa in cui lui era rimasto coinvolto qualche anno prima. C'è anche una leggenda che dice che ci fu una rissa tra amici, come a volte accadeva, che John Lennon gli abbia dato un calcio in testa, e si dice che John Lennon, tra i vari sensi di colpa che si è portato dietro per la sua vita, avesse anche questo. Però insomma non sappiamo se questo è vero. Qualunque sia stata la causa, con lui se ne va la sua arte e in qualche modo se ne va un pezzo della storia dei Beatles. Tre giorni dopo i Beatles arrivano all'aeroporto di Amburgo e si aspettano che Stu e Astrid vadano a prenderli insieme. Invece Astrid è sola. È sola e informa prima di tutti, naturalmente, John Lennon della morte di Stuart. Quello che era iniziato come un incontro ricco di elettrizzante allegria diventa un abbraccio pieno di dolore. È un dolore per la perdita di un uomo che aveva scelto una vita diversa, aveva scelto di rinunciare a un progetto ambiziosissimo, che peraltro si stava incanalando nella giusta direzione, per inseguire la sua passione, la sua vera passione, rafforzata peraltro dall'amore per una donna. Anche le vite brevi possono dare dei grandi colpi d'ala, esattamente come le farfalle. Stuart Sutcliffe è stato una farfalla in questo mondo, ha costeggiato la storia, ha visto nascere i Beatles, è stato un artista che probabilmente avrebbe detto la sua nel mondo della pittura e della scultura. Purtroppo il suo volo è stato spezzato molto rapidamente. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falco il gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. Poi, se volete, seguitemi e interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social. Insomma, se mi cercate, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.